Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui! Scusami, ti fai un po' più in là? Eccola, non sta è possibile! Siamo a Roma, signori funamboli, almeno per quel che mi riguarda, le 9-8 minuti oggi in diretta dagli studi di Roma. No, sono di le 9-8 minuti anche per me, ma tu mi hai rubato il posto e subito t'allarghi. Fatti più in là, belli capelli, ecco, dai. Eccola, eccola, lo sapevo, diventava molesta anche fisicamente. Oggi siamo qui, i funamboli, in diretta da Roma, ma anche dagli studi di Radio 24. Salutiamo tutta la redazione, da Peter Bescapè in regia, da Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Elisa Pancaldi. Non li vedo in faccia, mi dimentico i nomi. Soffri, dici chi sono, però chi ti godi qui di fronte a te? Cioè, beh, adesso... C'è Valerio Rocchetti qui in regia a Roma. C'è quel gran fico di Valerio Rocchetti, lo vogliamo dire. Ecco. Donne di tutta Italia, ci abbiamo unitevi, veramente... Unitevi Italia. E venite a cercare qui per acchiappare. Allora, 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta ai funamboli. E poi... Mi sei dimenticata, scusami, che c'è uno. Guarda, scusami, leggi qua, Veronica. Sono allora, stata presa leggi, un attimo seguì. Dalla foga, Valerio Rocchetti. 349-238-6666. Brava. Poi non ci vedo perché ti metti davanti. Questi sono i messaggi SMS o i messaggi WhatsApp. Anzi, vorremmo anche tutte le vostre sigle in audio. Sapete che ci piacciono le sigle in audio dei funamboli, di modo che così possiamo andare in onda. Allora, cara Veronica, oggi abbiamo tanti temi, come sempre, a partire da un tema che è un tema profondo, che ci interroga il tessuto sociale del paese, perché vogliamo parlare del fatto che moltissimi giovani, molti giovani o meno giovani, diciamo anche a 30 anni, 35 anni, lasciano quelli che l'Italia. Sono considerati giovani tra i 18 e i 34 anni. Sì, che poi giovani a 34 anni, ecco, poi bisognerebbe anche discutere. Insomma, qui bisognerebbe aprire un capitolo infinito e circa 50.000 se ne sono andati via nel 2016. Dunque, la buona notizia è che io sono ancora qui. Sì, esatto. No, in realtà il tema è molto profondo, perché ci si interroga quando ci sono questi rapporti sul perché molte persone che sono poi alcuni anche i talenti, o comunque sono davvero le persone più produttive, nell'età più produttiva, debbano andare all'estero per trovare in qualche modo la loro dimensione, la loro strada. È un paese che li rifiuta, è un paese che non li accoglie? È questo, perché l'aspetto su cui ci si focalizza di più di solito sono o il cervello in fuga come singolo episodio, quindi quelle che poi diventano delle eccellenze all'estero, oppure tutto il fenomeno dell'immigrazione, quindi come qui gestiamo la convivenza. Ma in realtà quanti sono quelli che da qui hanno bisogno di andare via per varie e molteplici ragioni che andiamo a indagare, che è una delle cose che viene vista meno. Sì, per carità, poi siamo in un mondo globalizzato ormai, e quindi è il mondo degli spostamenti, delle migrazioni, anche di giovani che vengono dall'estero in Italia, e quindi anche di italiani che vanno all'estero per trovare la propria strada. Però questa cifra, 50.000 che tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato nel 2016 il paese per trovare una loro strada, è un punto di partenza da cui vogliamo fare qualche analisi. Tra l'altro, Veronica, come sai, noi chiamiamo anche i nostri ascoltatori dall'estero, a maggior ragione oggi. 349-238-6666, se ci ascoltate in diretta in questo momento dal globo terracqueo sparsi nel mondo, scriveteci. E siete magari in grado di spiegarci perché ve ne siete andati. Esatto. Qual è stato il motore che vi ha spinto ad andare via? Magari non deve essere per forza una cosa, per cui un motivo per cui in Italia non c'era una strada. Tante volte anche all'estero ci possono essere delle strade migliori, non perché l'Italia sia un paese che vi rifiuta. No, magari ci sono delle strade più intriganti altrove, magari c'è un percorso di vita, o magari invece ci sono stati delle delusioni in terra natia. Quindi vedi che mi ha messo subito Prince. versione l'ha messo dall'inizio perché volevano che ti prendessi in giro dal primo minuto qui. Io mi sono distratta e non l'ho fatto. No, grazie. Comunque, magari anche però non è un paese per giovani, parafrasando un altro film un po' più importante. Dico, tu manco sai chi sono i fratelli Coen, ma che parlo a fare? Non io, è che sei l'unica che sai di cinema adesso. Io ne adesso, so pochissimo. No, meglio che non vado, meglio che non approfondisca, va. Salutiamo Delfina Licata, che è curatrice per la Fondazione Migrantes del Rapporto Italiani nel Mondo. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti voi, grazie perché a voi. 50.000 giovani se ne sono andati. La cosa forse più importante è da dire che sono aumentati del 23,3% rispetto all'anno precedente, il 2015. Questo è il dato, al di là della cifra. Vuol dire che il trend, purtroppo, dobbiamo dire, è in rialzo. Purtroppo è una parola che ci sta oppure no? Da una parte sì e dall'altra no, e la motivazione di questo è nelle parole della bellissima introduzione che avete fatto, talmente complessa da prendere un po' tutta la complessità delle motivazioni del movimento che registriamo. Diciamo che la crescita quantitativa era già per noi studiosi del rapporto italiani nel mondo aspettata da diversi anni, ecco, da 5 anni a questa parte, e che di tutto il mondo sociale italiano fossero i giovani adulti, perché come dicevate bene voi, dire giovani a 18 anni non è la stessa cosa dei 34 e non è la stessa cosa nella fascia 35-49 anni, perché è vero, se ne sono andati quasi 50.000 tra i 18 e i 34, ma bisogna considerare gli oltre 31.000 che hanno tra i 35 e i 49 anni, quindi la classe effettivamente più produttiva in continua crescita lascia per le motivazioni più differenti il paese. Il purtroppo ci sta nel momento in cui ci rendiamo conto che non viene a realizzarsi il vero processo migratorio, che è fatto sì di scelta di partire, ma deve essere completato dal poter tornare. In questo momento il più delle volte si parte, ma non si può scegliere di tornare. Sì, ma non sempre, ci sono anche dimensioni che vengono trovate altrove. Bisogna capire se sono persone qualificate. Ecco, questo sì mi interesserebbe capire. Sono persone, per esempio, laureate, si sa che si investe molto anche nella formazione di uomini e donne che poi magari vanno a declinare i loro talenti altrove. Questo sarebbe uno spreco anche economico per il paese Italia. Sicuramente sì, però è anche vero che nel momento in cui si sono anche formate, no, generazioni a una mobilità più intensa, a una professionalità che è data anche dal confronto con altre culture, ecco perché la mobilità, come dicevo prima, non è negativa, ma è una cosa positiva, perché permette anche una specializzazione, un confronto linguistico, un approfondimento con altre situazioni lavorative o culturali. Diventa un problema nel momento in cui quelle risorse così formate, ben formate in Italia, decidono di specializzarsi fuori, ma non hanno la possibilità poi di riportare quell'arricchimento professionale e umano realizzato fuori in Italia. Ma rispetto ai dati, per esempio, questo, Delfina, che cosa ci dicono? Cioè, la tendenza a tornare in Italia come è molto importante e consistente, oppure nei dati si riflette una tendenza a rimanere dove ci si è spostati? E purtroppo il dato ci dice che su 100 che vanno via soltanto 30 ne ritornano, e di questi 30 non sono di certo i giovani, ma sono soprattutto le generazioni avanti con l'età, quindi magari le persone che sono rimaste o sole perché magari vedove o insomma per questioni insomma personali, ma non sono sicuramente i giovani, purtroppo. Di cui questo... se ne deduce che le condizioni di vita che trovano sono migliori, sono o quelle lavorative chiaramente li mettono in una condizione di permanenza. Sicuramente sì, tra l'altro dobbiamo anche dire che non tutti hanno la possibilità di trovare all'estero la realizzazione piena del loro desiderio professionale e personale, molti finiscono anche col fare un lavoro dequalificato rispetto alla qualifica del titolo preso. Faccio un esempio così anche banale, un biologo che si inserisce nel settore ristorativo a Berlino, e nel momento in cui non è il dato a dirci la motivazione, ecco che ci vengono incontro le tante ricerche qualitative che effettuiamo, quindi le interviste, dalle interviste emerge una sorta di parola magica che è la meritocrazia, ovvero certo, questi giovani adulti. Io quando sento parlare di meritocrazia associata all'Italia mi vengono veramente, c'ho già la pelle d'oca. perché è il paese, secondo me, in cui la meritocrazia dovrebbe fare davvero tanti passi. Molto di più, e invece purtroppo non c'è. Ma io volevo chiederle un altro aspetto, Delfina. Leggevo che molte partenze invece sono anche partenze di famiglia, intese come famiglie allargate, cioè che spesso ci sono anche genitori che, appunto, oltre i 65 anni, che decidono di accompagnare il progetto migratorio dei figli. Sì, pensiamo che da gennaio a dicembre del 2016 sono andati via oltre 124.000 italiani, di cui abbiamo detto 50.000 hanno tra i 18 e i 34 anni. Sì. Dei 124.000, 26.000 circa hanno meno di 18 anni, quindi sono minori. Di questi 26.000, circa 16.000 hanno meno di 10 anni, il che significa che non possono partire bambini, insomma, tra gli 0 e i 10 anni da soli, ma sono... sicuramente minori accompagnati. Insomma, minori accompagnati, e quindi nuclei familiari che si spostano. E poi andiamo a vedere che oltre 6.500 italiani di questi 124.000 hanno dei 65 anni in su, e ancora una volta l'indagine qualitativa ci viene in soccorso, perché di questi anziani, di questi nonni, insomma, in fuga, come è stato più volte definita il movimento, questo movimento migratorio, sì, molti di questi sono nonni che finiscono col fare i babysitter dei loro nipoti nel momento in cui questi nipoti non sono ancora in età scolare. Allora, quindi... rimanga con noi, Delfina Licata, perché ci sta dando intanto tanti numeri importanti. Noi vogliamo salutare, però, siccome abbiamo appunto questa usanza anche di chiamare i nostri ascoltatori all'estero, persone che sono una comunità che vogliono mantenere un legame con l'Italia, lo fanno anche ascoltando Radio 24. Per esempio Simone Giunti, che salutiamo, buongiorno Simone. Ciao, buongiorno Alessandro e buongiorno Veronica. Io 37 ti... anni, da dove, sì, da dove ci ascolti, da dove ci segui, quando riesci? Vi ascolto dalla Svezia, e da più precisamente Hör, è un piccolo paesino fuori da Malmo, sud della Svezia. Che fai lì? Che faccio? Qua sono ormai da 10 anni circa, quindi sono emigrato nel 2007 in tempi, diciamo, non sospetti, quando ancora poi per motivi di... inizialmente è stato l'amore a portarmi qui, e poi sai come si fa, proviamo, andiamo, e è andata bene, quindi mi sono ormai... insomma, trasferito in pianta stabile ormai da 10 anni. Ecco, rientri insomma in una di quelle persone che è ben inserita in una società, con una relazione, con un lavoro, sì, con una posizione, certo, per cui uno dice, ma perché dovrei tornare? No, infatti, anche perché poi abbiamo avuto il piacere, da 2 anni e mezzo c'è nato un bimbo qui, il nostro primo figlio, Samuel. E quindi certo, e adesso anche poter ritornare sarebbe un pochino più difficile, sarebbe difficile. Anche perché poi qui, ecco, la differenza maggiore forse dall'Italia, anche poi per quanto riguarda avere un figlio, diciamo, molto c'è più c'è un welfare, lo sappiamo, insomma, in Svezia sono molto senti la mancanza dell'Italia, per esempio, quali sono le cose che ti pesano di più come qualità della vita, come differenze proprio? Io, mancanza dell'Italia, certo, la cosa che manca di più è, no, ovviamente sono i familiari, la famiglia, gli amici, che ecco, io mi sono trasferito ovviamente da solo, quindi quella parte lì ovviamente manca, mamma ovviamente manca, certo. Però al di là di quello, sai, ormai anche da un punto di vista, uno, la prima cosa che pensa poi è il cibo, è da mangiare, per dire. Infatti lo stavo dicendo, ormai... no, il cibo no. No, ci fa molto... Ho sempre avuto questa sensazione che ci facesse un po' provinciali, a dire mi manca il cibo, straordinario il cibo italiano. Perché, però scusatemi se divento molto nazional popolare nel dire che ci sono alcune cose però che determinano un po' la qualità della vita, che vanno anche proprio da quelle che sono la luce solare, ormai... per esempio, la temperatura. Sì, cioè alcuni elementi che fanno parte anche, secondo me, a mio avviso, poi magari la per romanità altri no, di Veronica dell'umore, purtroppo sì, io per esempio subisco molto il freddo, il caldo, la possibilità di essere circondati da un ambiente che in questo senso è più mite, certo, più accogliente. Certamente, però insieme a Simone Giunti Noi vogliamo salutare anche una persona che spesso abbiamo avuto ospite, perché è l'amministratore delegato in Italia di Flixbus, Flixbus Italia, cioè il, come viene definito, quella piattaforma, quel sistema che permette anche di fare viaggi in autobus, che permette soprattutto di fare viaggi in autobus a basso costo, ad alta qualità. Andrea Incondi, buongiorno e grazie di essere con noi, Andrea. Buongiorno a voi. Perché Andrea Incondi ha una storia che secondo me è emblematica di cosa vuol dire essere giovani in un paese straniero, bussare a una porta letteralmente, cioè mandare un progetto ed essere ascoltati. Ce lo vuole raccontare, Incondi? Sì, certo. Allora, io vi sono, diciamo, sono italiano, sono cresciuto in Italia, nella zona di Milano, mi sono laureato in economia a Milano. E ho cominciato, diciamo, il primo percorso, la prima gavetta iniziale nelle multinazionali italiane, dove ho sviluppato le primissime competenze manageriali. Poi, dopo circa 4 anni, qualcosa che non avevo previsto è accaduto, ossia il fatto che la fisica, oggi è mia moglie, è trasferita a Monaco di Baviera per un'opportunità lavorativa. Sì. E io mi sono trovato ad un bivio, diciamo, perché da una parte stavo, diciamo, sviluppando i primi anni della mia carriera lavorativa, stavo capitalizzando, diciamo, le prime esperienze, e dall'altra parte, diciamo, l'amore, insomma, che, diciamo, si allontanava. Allora, ha seguito l'amore inizialmente. E allora ho deciso di seguire questo. Quando sono arrivato in Germania, insomma, a Monaco di Baviera, nonostante comunque avessi un buon iniziale curriculum, insomma, parlassi l'inglese e non parlassi allora il tedesco, mi sono trovato in una situazione un po' più difficile nel cercare lavoro, perché invece la mia aspettativa era diversa, cioè di identificare, di trovare qualcosa che fosse molto più facile. Invece, dopo alcuni mesi in cui, insomma, le risposte che ricevevo è il fatto che, non parlando tedesco, le mie possibilità di trovare un'opportunità di lavoro comunque in azienda erano più difficili, ho, diciamo, rivisto la mia possibilità di cercare lavoro in modo differente. Ossia, ho detto, qual è effettivamente il valore che io posso portare a questa realtà? Qual è quel valore aggiunto che posso portare? Il fatto che sono italiano, il fatto che parlo la lingua italiana, il fatto che parlo e conosco il mercato italiano. Allora ho ribaltato, diciamo, la mia ricerca di lavoro, e invece di focalizzarmi su, diciamo, inviare la mia candidatura, mi sono chiesto, ma quali sono le aziende qui a Monaco di Baviera che potrebbero essere interessate ad espandere il loro modello di business o le loro attività? La cosa bella che però Andrea Incondi cosa fa, per sintetizzare? Diciamo, letteralmente bussa alla porta di Flixbus. Esattamente. E la cosa per me straordinaria, credo che in Italia sarebbe un pochino più difficile, viene ricevuto, viene ascoltato, dice venga a mostrarci il business plan. Ed è andata proprio così. Ma questo in che tempi? Cioè, hai avuto dei lunghi tempi di attesa perché questo accadesse, o è stato abbastanza rapido il tutto, Andrea? Quello che, quando ho trovato l'opportunità, mi sembrava una realtà che potesse più adeguarsi al nostro mercato, ho passato una settimana, diciamo, a preparare tutto questo business plan, a preparare tutto, diciamo, lo studio, e ho inviato un pacchetto, una mail, diciamo, fornendo tutte queste informazioni a uno dei fondatori dell'azienda. E dentro la settimana successiva mi ha detto, perché non vieni a parlarcene? Avete capito? No, nel senso, una mail al fondatore di Flixbus, che tra l'altro appunto è anche una piattaforma americana, no? Basata sulla Silicon Valley, quindi hanno forse questa capacità di essere anche un po' più energici, più innovativi, più dinamici. E hanno accettato di ascoltarla. Esatto, mi hanno fatto un'intervista praticamente di 5 ore, iniziata alle 6 della sera e finita quasi alle 11. Dove abbiamo parlato di tutto e dell'Italia, diciamo, e alla fine loro hanno detto, bene, ne parleremo con i nostri investitori e ti faremo sapere. E poche settimane dopo è arrivata appunto la loro risposta. E Andrea Incondi si è trovato amministratore delegato a Flixbus Italia, cioè dire vai in Italia, fai questo, sviluppa questo tipo di strategie. Suppongo, cioè, prime tu avessi dubitato di quel ti faremo sapere, che è una delle frasi topiche dei colloqui di lavoro. All'inizio è chiaro, poi c'è chiaramente, era un po' una roulette quella che stavo provando, perché sicuramente non dovevo solamente incastrare la mia professionalità, ma anche l'idea di un'azienda che decide poi di investire dei soldi, certo, in un paese, in un paese quindi, estero. Quindi il farmi sapere chiaramente aveva anche delle complessità maggiori, però sicuramente sono uscito anch'io da quel colloquio con la speranza che potessero poi richiamarmi, ed è così accaduto. Ed è successo. Sentiamo un ascoltatore, c'è Antonio da Salerno che ci chiama l'800240024. Antonio. Buongiorno Alessandro, sono molto emozionato, sei la voce amica della mattina. No, allora dai, non emozioniamoci, prego Antonio. Niente, volevo illustrare la mia situazione. Ho quasi deciso di andare via dall'Italia, perché in realtà io sono sistemista, faccio bene il mio lavoro a detta dei miei clienti, però il mio titolare ha deciso di chiudere, sto perdendo il lavoro. E diciamo che il fatturato non è quello che si aspettava. Mm-hmm. Questo purtroppo accade per molte imprese. Quindi Antonio, ma perché la soluzione via da lì, c'è solo l'estero? Come... Perché molto semplicemente io sono sistemista, inventore, ho un'idea buona, sto cercando da 2 anni di crearla, e nulla si agevola coloro che hanno già un, diciamo, fanno parte del mondo delle persone agiate. Grazie a questo stato che ci ritroviamo, del quale non vorrei non vorrei dire altro, non ho avuto neanche la possibilità di creare una famiglia, perché ho sempre lavorato, ma mi hanno sempre tenuto al minimo. Insomma, questa è un'altra problematica, Antonio, però la raccogliamo. Poi non possiamo da ogni singola storia trarne delle conclusioni generali. Però Delfina Licata, quello che ci ha detto Andrea Incondi, per esempio, Flixbus Italia, è la dimostrazione che effettivamente quando si parla di meritocrazia, cioè in Italia io non so quanto sia possibile, non voglio fare il disfattista, l'idea di... mandare un business plan a una grande società, a una grande azienda internazionale, essere ascoltati e poi dire ok, bello, ci piace questo progetto, prego, vai avanti, fallo, investi. Lui aveva solo la forza del suo entusiasmo, non aveva alle spalle, come dire, nessuno che lo spingeva. Infatti, ma è anche molto interessante che in un tempo così breve siete riusciti a raccogliere 3 testimonianze che un po' raccolgono la complessità di cui si parlava, della situazione di chi decide di partire, come nel caso di Antonio, o di chi all'estero c'è, perché da una parte c'è l'entusiasmo, insomma, di Andrea, che poi ha avuto risposta positiva, da un'altra parte c'è la rabbia di Antonio che lo spinge ad andare all'estero, e dall'altra parte c'è la motivazione delle love migration, quelle che noi chiamiamo così, che un po' collegano sia Andrea che Simone, e che poi hanno una realizzazione positiva con la realizzazione della famiglia nel caso di Simone, e quindi una decisione di non ritornare, mentre invece Andrea ha avuto la possibilità di un ritorno alle origini, al suo paese, con una non solo una partecipazione attiva, ma anche un ritorno economico, certo. Ecco, quello di cui si parlava prima, un arricchimento rispetto alle sue competenze, e portando anche un'idea innovativa in un'Italia che ha estremamente bisogno della dinamicità di cui stavamo parlando prima. Certo. Delfina, io volevo chiederle soltanto un'altra considerazione. È reale secondo lei il fatto che in Italia la percezione che si ha di un disoccupato invece in età avanzata sia un fallimento della singola persona, mentre ci sono alcuni paesi che su questo hanno un'ottica completamente diversa, cioè che di un disoccupato che a tarda età, dopo appunto superati 50, prima della pensione, si ritrova disoccupato, lo avvertono come un fallimento dello Stato e non come un fallimento della persona? Questo personalmente lo noto, viaggiando tanto, e noto anche il fatto che all'estero, in ogni caso, la persona dei 50 anni in su viene considerata non soltanto per la persona che è, ma anche per tutto il supporto di bagaglio esperienziale che può dare. Certo. Sì. In ogni caso, noi ringraziamo molto Delfina Licata, curatrice per la Fondazione Migrante e questo rapporto italiano nel mondo, così come Simone Giunti in Svezia, padre da 2 anni, Andrea Incondi, amministratore delegato di Flixbus Italia, che dobbiamo invece ringraziare perché è padre da pochissimo, credo, però ha trovato questi 10 minuti per noi, quindi ovviamente tanti auguri, in bocca al lupo a tutti. E che dire, andiamo a sentire un attimo la pubblicità, poi cambiamo tema, abbiamo tante altre cose da raccontare qui ai Funamboli. Adesso, Veronica, nel frattempo Milan si cambia di abito, come si fa a Sanremo, e per il prossimo argomento indosserà un tutù. Uno smoking, no, a tra poco. I Funamboli. Trailhead full of zombies. L'unico fatto che se ne vanno all'estero è solo economico e basta. Se si guadagna bene qua, nessuno se ne va. Finalmente oggi sono a casa. Questa mattina posso ascoltarvi, godervi e vedervi fino alle 11. Ciao e grazie della vostra compagnia. Veronica, ma come fiasco questa cosa dai? Ma non ti metti a bravo uno. Vattin, a Balovagna di Comate non può stare questa cosa milanista. Io ho capito bene che una come te non può stare con uno come me. L'ho credo capito di così. Aver capito anch'io. Ma tradurrei così, ma non sono sicuro. Sento che questo è un buon consiglio. Sì, ma secondo me c'era anche qualche parola che dobbiamo analizzare bene al rallentatore. Tu dici che dobbiamo sentire... Veronica, ma come fiasco questa cuda dai? Ma non ti metti a bravo uno. Vattin, a Balovagna di Comate non può stare questa cuda milanista. Sulla prima parte ho dei problemi anch'io nella traduzione simultanea, ma il concetto finale è chiaro. Qualora qualcuno volesse fornirci il testo completo della traduzione... Io vorrei capire anche di che tipo di dialetto si tratta. Cerignola, che cos'è? Bari, cos'è? Non so, sì, deve essere sud, ma non saprei identificare... Sì, no, pugliese sicuramente. No, dai, Veneto non mi sembrava, ecco. Pugliese, io direi pugliese. Non so, potrebbe essere pugliese, però se ci vuole fornire una traduzione pedissequa, simultanea, magari insomma... Alla Fernanda Pivano, ecco. Esatto. Va bene, e comunque ho colto anche milanista, credo, verso la fine. Questo anche in comunque, cerignolese. Il consiglio credo. Era chiaro, però vattene, non stare dietro a questo. Questo era il C'è senso. Paolo che ci chiama da Como. Buongiorno Paolo. Sì, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Dai, intanto complimenti, siete un bellissimo fritto misto che anima la mia mattinata in ufficio. Tra poco arriva fritto anche misto, Manera. Non me l'aveva mai detto nessuno. Solitaria perché ho il mio ufficio tutto da solo. La bionda, la riccia e il pelato. Esatto, cioè abbiamo la bionda prima di tutti, la riccia e il pelato. Volevo condividere la mia esperienza, o meglio non esperienza, all'estero, perché io alla fine non sono partito. Perché? È successo che l'anno scorso, dopo la maturità, ho scelto come premio questo viaggio che mi sono fatto da solo in Canada per un mese. Sì. E al mio ritorno, pensandoci bene, io sono rimasto stregato da questo posto in cui mi sono trovato molto bene, in cui c'era questa integrazione razziale assolutamente molto forte. E quindi niente, io ho fatto la richiesta del visto, solo che quando il visto mi è arrivato, praticamente io sono stato assunto a tempo indeterminato in questa azienda. Ah, e vabbè, quindi Paolo, hai fatto questa scelta. Alla giovane età, sì, alla fine 21 anni, sono stato molto fortunato. Vabbè, ma mi sembra anche una scelta legittima, è comunque stato se uno ha un posto... Oltretutto... La morale che tu ci vuoi fare vincere è che se uno fa il visto ed è pronto ad espatriare per il Canada, a quel punto viene assunto. Esatto. Quindi il consiglio è la legge di Murphy in positivo. È accendere la sigaretta quando aspetti l'autobus, insomma. In ogni caso, grazie Paolo, perché qui stiamo raccontando molto di persone che se ne vanno per motivi importanti, cioè trovare una propria dimensione, ma vogliamo raccontare ora una storia con il sindaco di Pollica, siamo in provincia di Salerno, Stefano Pisani. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Perché qui è un altro tipo di viaggio, se volete, un altro tipo di migrazione che vogliamo raccontare. Allora, in Cilento dovete sapere che, soprattutto nella sua zona, ci sono moltissime persone longeve, cioè vivono a lungo. Tra gli 80 e i 90 anni addirittura si arriva a vivere. Cioè, quelli tra gli 80 e i 90 anni superano il 10% della popolazione, esatto. Moltissimi. Beati voi. Solo che in Svezia vogliono capirci di più. Ed è vero che farete una sorta di scambio. Scambio di famiglie. Scambio di famiglie, cioè per studiarsi reciprocamente. Può sembrare un Erasmus per i meno giovani, ma infatti è affascinantissimo detto così, sindaco. No, è invece una cosa molto, molto seria e che mette in condizione il nostro paese, come accade poco spesso, ma quando accade, accade bene, mette il nostro paese all'avanguardia rispetto a tutti. Raccontiamo di uno stile di vita che riesce a garantire non la lunga vita, perché oramai la tecnica medica la garantisce a molti, ma a garantire una lunga vita bella, piena di qualità, un'alta qualità della vita, di altissima qualità. Assolutamente sì, la raccontiamo da un posto del mezzogiorno d'Italia che spesso viene poco considerato, il sud dell'Italia viene considerato il peso. Questa volta segniamo la differenza, perché la ricerca scientifica ci dice che il nostro modo di vivere ci fa vivere a lungo, ci fa vivere bene e soprattutto ci fa confrontare con la parte a nord dell'Europa, dove i servizi alle persone sono elevatissimi, dove non manca nulla. Ma infatti questa è un'esigenza che nasce dalla Svezia, cioè sono gli svedesi che hanno avuto la curiosità di capire quali siano, che cosa manchi, nonostante siano considerati un paese all'avanguardia, no? In termini culturali, nella gestione anche del welfare, che cosa manchi come caratteristica per stare così bene? Assolutamente sì, nasce da loro perché precedentemente c'è stato uno studio scientifico tra la Sapienza di Roma e la San Diego University che ha raccontato dell'eccezionalità delle persone che vivono nei nostri luoghi. La scoperta scientifica ha messo così in evidenza gli elementi cardine dei nostri ultra novantenni e gli svedesi hanno detto: vogliamo capire come possiamo in qualche modo rubarvi un pezzo del vostro segreto. Noi gli abbiamo detto subito: innanzitutto il sole non ve lo potete rubare, quindi però siete a venire. È interessante, sindaco, cosa succederà? Cioè 200 cittadini dal Cilento partiranno e andranno in Svezia e staranno lì quanto e che faranno? Ci aiuti a capire. Ma adesso la ricerca scientifica, torniamo alla parte seria di tutto. La ricerca scientifica sta mettendo insieme i criteri utili per la selezione sia delle persone cilentane sia degli svedesi che si scambieranno tra virgolette il posto per individuare i migliori che possono far evidenziare al meglio i cambiamenti dello stile di vita e dei risultati sulla salute. Ci sarà una prima fase di indagine che consentirà la selezione e questo sarà fatto approssimativamente all'inizio del 2018. Questo è un processo guidato dal professore di Somma, dal professor Melander dell'università svedese. Completato questa prima parte, ci sarà subito un'indagine su 1000 persone del Cilento e all'interno di quei 1000 saranno poi selezionati 200 che andranno in Svezia. Raccontiamo, perché sono esperimenti scientifici molto importanti, sono luoghi del mondo, uno per esempio in Giappone, credo ad Okinawa, ce ne sono anche in Sardegna, ci sono anche in Cilento, dove effettivamente c'è una longevità e una qualità della vita che viene studiata a livello scientifico. Sindaco, ma ci sono delle ipotesi, cioè degli elementi già che uno può tentare di evidenziare? Io ne leggevo alcuni, ma non so quanto abbiano una realtà, per esempio il sesso, no? Sono un'attività fisica e uno dei attività fisica subito il sesso. Quella è la migliore delle attività fisiche. Io capisco che la tematica non ti riguarda. Ho capito, ma il sindaco non può sapere se i cilentani si accoppiano in maniera... Io non posso dire nulla, però se Giuseppe 95 anni che dice che questo è il suo segreto della longevità, perché ancora a 95 anni riesce a raccontare le sue c'è un cardiologo dell'Università Americana di San Diego che ipotizza che se le ricorda, di quando era un po' più giovane. Per esempio, Devo dire la verità, Giuseppe dice che io sono ancora troppo piccolo per capire, perché ho solo 40 anni, ci sarà il tempo anche per me. Che questo valore aggiunto si capisce con l'avanzare dell'età. Sicuramente magari la dieta mediterranea, il sole, però la dieta mediterranea non c'è solo nel Cilento. Il rosmarino anche, è inutile che sorvoli così, che è un altro elemento. C'è un insieme di elementi che connotano la nostra area, la presenza di un'area protetta molto estesa, che è il Parco Nazionale del Cilento, poi la presenza dello stile di vita mediterraneo. Pollica e il Cilento stesso sono, come dire, comunità emblematiche per l'UNESCO, per la dieta mediterranea. Vuol dire che qualcosa in più è rimasto, non che non si persegua lo stile di vita mediterraneo altrove, ma nel Cilento questo è a maggior ragione presente, e questo è sicuramente uno dei dati che è emerso dal primo studio che abbiamo fatto con la San Diego University e la Sapienza di Roma. E poi, sindaco, vedremo invece negli studi successivi che succederà. Intanto noi davvero la ringraziamo. Sindaco di Pollica. Sindaco, secondo me noi la richiameremo. Io glielo dico. Anche perché glielo diciamo, noi vorremmo seguire l'esperimento, cioè avere anche poi i numeri di queste persone che andranno in Svezia. Cerchi di insegnare rapidamente l'italiano a questi signori svedesi, perché poi vogliamo sentire cosa ci dicono. Capire anche i cilentani che se ne vanno lì e mangiano la renna. e capire se questo si mangia la rendita. I cilentani da lì sentire cosa dicono. Lì speriamo, poverini, che non siano troppo destabilizzati. Comunque in realtà stiamo raccontando la parabola inversa. Tutti partono, come vanno via le necessità, e poi invece no, la longevità in Italia, nel Cilento, in paesi che... Quindi ci sono pro e contro. Pro e contro. È il nostro paese di funamboli. Guardalo lì, lo vediamo in video, il nostro funambolo Leonardo Manera, che tra poco sarà con noi. Caro Leonardo, hai una storia sulla longevità in Svezia? Cari miei, vi vedo bene lì a Roma insieme, in armonia perfetta, devo dire. Siamo carini, eh? Mi ha anche disegnato un cuoricino sul la braccio. La bionda e la mora, sembriamo due veline. Vedo Alessandro che è più sorridente del solito, diciamo, smettila, stamattina. Smettila. Dici che si trova meglio con me che con te? Ma questo è sicuro, la presenza femminile anche gli crea orgoglio. Andiamo al traffico, ecco, faccetta Sandra tronfia, faccetta tronfia. Andiamo al traffico, siete due farabutti, siete due licenziati, tra poco. I funamboli. Veronica, ma come fia sto questa cuda dai? Ma non ti metti a bravo uno. Vattin, a balavagna di come a te non puoi stare questa cuda milanista. Allora, caro Leonardo, pare è arrivata una traduzione in sintesi. Veronica, non stare vicino a quel milanista che ti fa perdere punti allontanati. Questa è la traduzione simultanea aggiunta per noi mediante un telegramma direttamente dalla provincia di Boh. Ma invece io devo dire che Alessandro oggi ha anche una maglietta che gli mette in mostra i bicipiti, e questo l'ha fatto perché vicino c'è Veronica. Mai sta visto così. Sta diventando bella. La tartaruga? Non l'hai vista la tartaruga? Non l'ho vista. Sta diventando bella. Vorrei che tu leggessi anche il messaggio che c'è sotto, no, per favore. No, no, tu adesso invita leggi... Veronica a cantare. No, Leonardo, prego, vai. Ma io invece oggi vorrei parlare di un tema che purtroppo non ha molti spunti di comicità, perché ieri sul Giorno e oggi su altri giornali ci sono molti articoli dedicati a un comico che è anche un amico per me, Marco Della Noce, che appunto ha fatto con me tanti anni a Zelighe. Lì a Zelighe faceva il capo tecnico della Ferrari. Marco è in difficoltà a causa della separazione, che è sempre una condizione complicata perché può causare problemi umani e economici. E la separazione è sempre causa di sofferenza perché in qualche modo rappresenta la fine di un progetto umano e familiare. Se poi ci sono anche figli, la sofferenza è più intensa. Anch'io sono un padre separato e spesso quando ti separi ti trovi a gestire una condizione difficile e ti trovi a cercare conforto in un avvocato che ti spiega quali sono i tuoi diritti di padre, che spesso sono meno considerati di quelli della madre. Ti sembra di perdere tutto, figlio, famiglia e quella parte di reddito che spesso obbliga i padri separati a vivere in povertà. Con la madre di tuo figlio ci si ritrova solo a parlare di soldi, di quelli che servono per garantire al figlio il tenore di vita precedente, come se il tenore di vita di un bambino si misurasse solo dal numero di scarpe comprate. A volte provi ancora ad avere un approccio con la tua ex, ma dall'altra parte trovi la stessa accoglienza che trova Salvini in un campo rom, per dire. Allora capisci che devi provare a rifarti una vita, ti rimetti in forma per cercare una nuova compagna, fai gli addominali, cerchi di non perdere i capelli, ma il vuoto dentro resta e la tartaruga sulla pancia non basta a farti compagnia. A volte però trovi anche una donna con la quale far l'amore, non è difficile, però proprio sul più bello pensi a tuo figlio e piangi e torni a casa sconfitto perché ti rendi conto che tuo figlio in pochi anni ti ha regalato la felicità, ma è una felicità diversa dalle altre, da quelle che conoscevi prima, perché è una felicità incondizionata. Sei felice quando è felice lui, senza aspettarti niente in cambio. E quella felicità è soprattutto tuo figlio, ti manca da morire. Però, ed è questo che voglio dire ai padri separati, è proprio in quel momento così difficile che tu paradossalmente puoi ritrovare il tuo ruolo vero di padre. Ti rendi conto che, non avendo più con te tuo figlio tutti i giorni, devi cominciare a essere veramente padre di tuo figlio e nel migliore dei modi possibili. Perché non sei più un padre normale. Sei un padre dimezzato dal tempo compresso che ti resta per stare con tuo figlio. E allora devi utilizzare quel tempo meglio che puoi, in modo che qualche anno dopo tuo figlio possa venire da te e dirti: ho capito che hai fatto tutto il possibile, ho capito che mi sei stato vicino e che mi hai tenuto per mano anche quando eravamo lontani. Ti voglio bene, papà. Tra l'altro, caro Leo, sei Leonardo, sempre più sentimentale, sì, sì, sì, sempre più pieno di cuore. No, devo dire sì, sì, assolutamente. Tra l'altro questa storia di Marco Della Noce ha colpito molto. tu ovviamente Leonardo, conoscendo anche personalmente, ti ha colpito umanamente perché ne conosci da anni un po' tutte anche le vicissitudini. Io voglio credere che alle 10.20 sarà negli studi di Radio 24 a Roma al tuo fianco. Arriverà lì, cioè, tra l'altro, se mi permetti Alessandro, siccome arrivano sempre dei messaggi a volte che giudicano senza conoscere la situazione, c'è un signore che dice falla breve, fallo venire a casa tua se lo consideri amico, eccetera eccetera, visto che vivi in acqua. Questo signore che io non conosco e che giudica senza conoscere la situazione, volevo dire che io e tanti altri amici ci stiamo attivando in questa direzione, quindi... Ma infatti, ma come dici tu, spesso le persone non sanno e no, giudicano. No, ma poi sai, a sparare sentenze mandando quattro righe di messaggino ci vuole un momento, poi prendersi realmente carico di una questione ci vuole un po' di più, quindi... So che tra l'altro appunto già nell'ambiente, come si suol dire, lo avete aiutato materialmente. Comunque Marco Della Noce, comico di Zelig, conosciuto, volto noto, sarà ai nostri microfoni di Radio 24 nella seconda ora dei funerali. Quindi state con noi, perché tra l'altro non sarà solo parlare della sua storia. No, infatti ci offre lo spunto per parlare di una questione che avevamo poi anche un po' toccato ieri, così in maniera tangenziale proprio, che è il problema dei padri, dei papà che si trovano molto spesso anche loro vessati, isolati, con mille difficoltà, perché poi ogni genere si trova con le sue problematiche. Sì, abbiamo... Io voglio solo dire appunto quello, che per molti padri è una condizione difficile, ma come è successo anche, lo dico sinceramente, anche a me, io forse sono diventato più padre dopo, nel senso che in qualche modo mi sono anche responsabilizzato di più, e questa è anche un'opportunità nella difficoltà della situazione. Questo senza dubbio. Vediamo che c'è Lorella da Isernia che ci chiama all'800240024. Lorella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, complimenti. Eccoci. Grazie. Che ci vuole dire Lorella? Allora, io riguardo alla problematica dei giovani che si allontanano dal proprio paese, purtroppo, loro malgrado. Sento un ritorno della voce, però. No, prego, vada avanti. Allora, niente, mia figlia con il suo ragazzo all'inizio dell'anno, di quest'anno, decisero di allontanarsi da Isernia dopo aver anche rottamato la macchina per andare a cercare lavoro fuori, nello specifico alle Canarie, dove vive un altro mio figlio. Sì. E dopo aver tanto peregrinato alla ricerca di un lavoro che non era mai arrivato, tante promesse, tante illusioni, sono partiti dopo una disavventura che non sto a raccontare perché è veramente lunghissima, e sono arrivati lì dopo una settimana che erano lì a Tenerife, nello specifico, è arrivata la chiamata per il ragazzo di mia figlia. Ed è dovuto ritornare qui al paese, a Isernia, per una prova di lavoro che per fortuna dura ancora, adesso da 10 mesi. E niente, quindi Lorella, lei ci conferma la teoria che basta partire, organizzarsi per partire lavoro, per trovare lavoro a Roma. Io sono un po' romacentrica, sappiamo. Però quindi il sistema è questo, è come la storia dei garage, vedi che stiamo trovando delle nostre teorie dei filoni. Allora, l'idea viene in un garage, fatti un viaggio all'estero tutto tuo e trovi lavoro in Italia. Dai, la seconda ora dei funamboli dopo il giornale radio, state con noi. I funamboli. Nera, sto guidando un camion, ma sei riuscito a farmi piangere. Ah, allora mi ha capito fatta. Famuri i primi weekend in Italia. Insomma, lui la patana. È pugliese questo, mi sembra pugliese. Però, abbiamo un attimo un problema, ma l'interprete sta arrivando qui in radio adesso. Allora, è la seconda ora dei funamboli. Devo dire che l'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio al 349-238-6666 si deve accodare con Alberto da Milano, che dice grazie Manera, parli da uomo sincero, mi hai fatto piangere. Luca, papà di Arezzo, fanculo Manera, mi hai fatto piangere. ma sei un grande. Se però far piangere comporta questi vaffanculo, no. Stai attento, Manera, ti piglio a pizza perché mi hai fatto piangere. Una vita a tentare di far ridere, mentre abbiamo scoperto il vero core business di Manera. La vera vocazione drammatica, come tutti i grandi attori comici. Ma no, ma perché poi, Leonardo, diciamo la verità, quando poi si racconta di vita vissuta, vita vera, vita quotidiana, poi i comici si ispirano molto, no, alla vita, anzi quasi soprattutto, ma totalmente. Come Veronica saprà, essendo attrice, saprà che insomma il teatro, la commedia poi, no, spesso parla dei problemi reali della vita, è l'altra faccia della drammaticità. Assolutamente sì, le due cose sono proprio inscindibili. E quindi eccoci qua, vabbè, vi ha fatto piangere, però dai, adesso state con noi lo stesso, anzi state con noi perché sono lacrime belle, sincere, di vita vissuta, e quindi avanti al 349-238-6666. Ci sono ascoltatori? No, non ci sono ascoltatori, però potete chiamarci all'800-24-0024. Ma è il momento del funambolo del giorno, quando sono le 10:10, andiamo a scoprire di chi si tratta. Nome: Giuseppe. Cognome: Cordaro. Età: 36 anni. Musicista, chitarrista e sound designer, è in grado di far cantare le piante. A proposito, ascoltate. Sentile come cantano. Cantano pure le piante, a me non mi fanno cantare. Questa melodia è stata registrata nella riserva naturale Torre Salsa, in Sicilia, da Giuseppe Cordaro, che salutiamo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Intanto, sound designer, bisogna capire bene di che si tratta. Ma che vuol dire questa storia delle piante? Cioè, suonava che cosa? Esattamente era una melodia prodotta da che cosa, quella che abbiamo ascoltato? Quella che avete ascoltato è la melodia prodotta dalle piante presenti nella riserva di Torre Salsa. Ma piante. Avete sentito? Sì, quei sì, suoni sì, che assomigliano a campanellini, quindi sono prodotti dalle piante? Sono prodotti dalle piante. Ma come si fa a farle suonare? Allora, il procedimento è molto semplice. Tutte le piante producono degli impulsi elettrici. Io non faccio altro che applicare dei sensori alla pianta che codificano quegli impulsi elettrici e tramite una scatola traduce quell'impulso elettrico in nota musicale. Che detta così sembra una cosa semplicissima, sì, insomma, no? No, però gli impulsi elettrici delle piante vuol dire, insomma, si risponde anche alla grande domanda delle piante, che ovviamente sono vita, ma le piante che, se hanno impulsi elettrici, provano qualcosa? Questa è la grande domanda, no? Vabbè, che tutti si fanno adesso. Impulsi elettrici è il momento mistico della bionda. No, però no, sono tantissimi gli studi. Io nella fattispecie mi rifaccio ad alcune ricerche di uno scienziato italiano che si chiama Stefano Mancuso, che con il suo laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale porta avanti queste ricerche, che le piante sono in grado di percepire e rispondere in modo ottimale a numerose variabili presenti. Ma tra l'altro immagino che di giorno in giorno ci siano anche delle variazioni, diciamo, in base, fra virgolette, agli stati d'animo delle piante, o no? Esatto. Ci stiamo proprio ci stiamo inoltrando nella psicologia delle piante. Ma per rilevare il suono di ogni singola pianta e capire come suoni diversamente, è necessario quindi che ci sia una strumentazione? Non è che io mi metto a suonare un faggio rispetto a una quercia e sento la differenza senza averne i mezzi. Bisogna avere questa scatola, che è un convertitore di segnali elettrici in linguaggio MIDI, che è un linguaggio informatico che appunto traduce quei dati elettrici in ogni singola nota. La cosa bellissima è che ogni pianta ha una propria attività e quindi anche una propria melodia. L'unico intervento umano, se si può parlare di intervento umano, sì, è la scelta dello strumento virtuale da far suonare, perché questi impulsi poi li devo far ascoltare. Quindi la sequenza di note, la velocità è tutta decisa dalla pianta. Accidenti. Poi accidenti. Il timbro lo decido io, ovviamente, per fare. E ci sono delle piante preferite, predilette? Quelle che suonano meglio. Esatto, quelle che hanno una melodia. Io non ho campionato tantissime piante, però nella mia esperienza a Torre Salsa, il brano che avete appena ascoltato, la palma nana aveva un suono molto melodico. Poi mi è capitato anche di... Sì, sì, la palma nana è una specie autoctona che è presente appunto nelle coste dell'Agrigentino. Poi e con mi cosa l'avevi combinata tu la palma nana? La palma nana sono dei campanellini. Quel campanellino che sentiva. Sì, quei campanellini che sentite. Poi c'è anche una specie di pianoforte un po' effettato, che sono l'eucalipto e anche una yucca, sempre presenti all'interno. Beh, ragazzi, della ma io dico, ma quale parte della pianta produce esattamente tutte, la melodia? Tutta la pianta nel suo nell'intero, nella sua, diciamo, nella sua totalità emette questi impulsi. Quindi non il tronco, quindi, i rami, le foglie. Io posso inserire i sensori sia sulle radici che sul tronco che sulle foglie, producono degli impulsi elettrici. Ma la cosa ancora più bella è che loro reagiscono allo stimolo umano, nel senso, se io, mentre i sensori sono attaccati alla pianta, tocco la pianta, la sfioro o l'accarezzo, la pianta reagisce, ovviamente, perché anche la mia pelle ha una conducibilità elettrica. Quindi... Sì, è una questione, Cordaro, di banalmente, io lo dico, in realtà non c'è nulla di banale, di vibrazioni. Sì, infatti è tutto una vibrazione. Stimolare le vibrazioni e, come dire, tradurre quelle onde sonore in suoni. Che noi ascoltiamo. Ma come ti è venuta un'idea di questo genere? Cioè, tu eri un appassionato, avevi un animo bucolico che si è tradotto così o...? No, è sempre stata una passione il cercare suoni che non riusciamo ad ascoltare. Quindi ecco perché delle piante. Avevo letto delle ricerche di Mancuso, poi online ho cercato qualcuno, perché io non sono un programmatore, qualcuno che mi potesse dare la possibilità di poter realizzare quel desiderio. Senta, io a casa ho un Ficus Benjamin, lo posso far suonare il mio Ficus Benjamin? Magari anche fare un gruppo musicale, li chiamo proprio Ficus Benjamin. Un bel trio, potresti fare un bel trio, Ficus... Ha un bel suono il Benjamin, anche io in casa lo utilizzo spesso, ha un bel suono. Senta, la sua vita privata come va, al di là di questo rapporto che ha con le piante? È il nostro Leonardo Manera, alla fine deve mettere un po' di zizzania. No, voglio sapere se la moglie o la compagna è gelosa di questi Ficus Benjamin, di queste piante che fa suonare, diciamo. No, non è gelosa, anzi insieme a me sta lì, ascolta. Me la faccia dire adesso, me la faccia dire, perché sua moglie prima o poi potrebbe piantarla. non è vero. Non l'hai veramente detta, vero? Non è successo. È incredibile perché le pensa, ma poi le dice. Torniamo indietro di qualche secondo nel tempo. No, comunque Giuseppe Cordaro, noi la ringraziamo molto perché è una storia molto funambolica questa. Io tutto nella vita avrei pensato tranne trovare qualcuno che fa suonare le piante. Anche molto poetica. Giuseppe, ma fai anche colonne sonore? Cose di questo genere? Sì, le utilizzo anche per sonorizzazione di video o di spot pubblicitari. Mm-hmm. Ecco. Beh, insomma, lo possiamo mettere anche nella nostra rubrica dei lavori particolari. Diciamo che abbiamo preso due piccioni con una fava. Io devo fare outing. Fare outing, attenzione. Sono stata fidanzata per quasi 3 anni con un sound designer. Adesso l'ho detto. Che però non c'entrava con le piante. No, cioè quest'animo un po' bucolico lo aveva anche lui, però ormai l'ho detto. Va bene, l'ha detta. Grazie a Giuseppe Cordaro, funambolo del giorno. Ricordate che tra poco, nell'ultima parte dei funamboli, avremo ospite Marco Della Noce, il comico, tanti anni volto noto di Zelig, che ci racconterà la sua separazione anche con un percorso davvero difficile dal punto di vista economico, e ci permetterà di parlare del tema i padri separati, molti dei quali si trovano in gravi difficoltà. Lo faremo più avanti, ora il traffico, state con noi, state con i funamboli. I funamboli. Allora, siamo qui, sono le 10 e 19 minuti, siamo in diretta su Radio 24 e io sono negli studi di Roma insieme a Veronica Gentili. Negli studi di Milano c'è il nostro funambolo Leonardo Manera. Mi ma avete è abbandonato. Affiancato. Ma è no, affiancato. Ti senti solo? Ma no, perché adesso è arrivato un amico. Esatto, è arrivato un amico e noi lo vogliamo molto ringraziare, Marco Della Noce, che eccoci qua. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, vi saluto e poi, anzi, sono anche un fedele ascoltatore dei vostri programmi. Oh, che intanto, ma Marco... non lo dico per fare il ruffiano. Un po' sì. No, non intanto, è vero. Intanto grazie per essere venuto a far compagnia a Leonardo, Marco, veramente, che era lì solo... Lo so, ma io sono pagato dalla Croce Rossa per l'avevo capito, infatti, in realtà più di una poi... volta lo accompagno. No, Marco Della Noce ci ha molto colpito perché insomma vedere il tuo volto lo conoscono in molti, volto di Zelig, sai, quando uno conosce l'aspetto pubblico, l'aspetto diffusamente riconosciuto da tutti quanti, poi è un po' un pugno nello stomaco perché ti riporta anche alla realtà, leggere invece, come abbiamo visto ieri sui giornali, la storia, che è una storia molto molto difficile, insomma, di un padre separato che si è trovato in gravi difficoltà economiche. Non vogliamo tanto raccontare la tua storia nei minimi dettagli, però Marco, intanto ti ringraziamo di essere qui e perché hai voluto lanciare questo messaggio pubblico anche di difficoltà personale? Allora, innanzitutto l'ho lanciato dopo un consiglio, io sono in cura a Niguarda perché comunque sono stato aggredito da una depressione molto... particolare che mi mangiava da dentro e perché io non ho il sentimento della rabbia e è stato consigliato di incanalare eventualmente questa rabbia nel raccontare la mia storia, di poter essere anche una voce per tutti quei papà che non possono parlare. E a fatica mi sono deciso perché raccontare di te in un momento così difficile non è facile. Anche può essere frainteso, addirittura ieri qualcuno ha pure osato dire che il mio era tutta una finta, una pubblicità per un film che dovrò fare, quindi non c'è da meravigliarsi come il mondo la gente sia è cattiva, Marco. No, non lo diciamo noi, no, ma poi le persone penso sono... che a volte la gente parli senza pensare, parli proprio per il piacere di esporre un'opinione. E invece io penso che sia importante per un padre separato poter avere ascolto, perché si soffre e quindi avere ascolto in questo caso, diciamo, mediatico, ma poi in generale anche dalle persone che non hanno questo tipo di riscontro, sia fondamentale. È vero, e quindi io inaspettatamente ho ricevuto un sacco di solidarietà, soprattutto dai colleghi, faccio pure dei nomi, da Gerry Scotti a Claudio Bisio, Ale Franz, e venendo in giù tutti i colleghi di Zelig e anche quelli di Napoli, di Made in Sud, che avevo fatto anche con loro un programma, e anche quelli di Roma. La mia storia non può essere tanto diversa dagli altri, l'unica differenza sono le cifre che si sborsano. Ma com'è stata la tua storia? Che cosa è accaduto? Faccio una breve innanzitutto capitolo. Io pago della mia visibilità, perché nell'immaginario c'è che noi lavoriamo in televisione, certo, e siamo pieni ricchi di ricchi e famosi, certo. Ma finché lo pensa la gente mi sta bene, ma quando lo pensano i giudici no. Non sono mai stato creduto che io avevo una flessione nel lavoro. Sono partito da 3.500 euro al mese per due bambini. Sono da versare ogni sì, mese. Ma era una cifra verosimile per te? All'inizio sì, anche se non doveva durare tutta la vita, però all'inizio sì, fatto ricorso, mi è sceso 2.000 e poi ancora sono sceso a 1.500 per due bambini. Ma nel frattempo, quando io non potevo versare i 2.000 euro che il giudice mi diceva, io alla mia ex famiglia davo, non so, 600, 800, 1.200. Quello che si poteva. Ecco, la compagna ha fatto le differenze. Ha fatto le differenze da quello che davo a quello che avrei dovuto dare e alla fine del mese si accumulano anche 15-20 mila euro di debito. Alla fine dell'anno. Anche. Alla fine dell'anno. Il problema è che poi alla fine si è arrivati addirittura a pignolare, credo, la partita IVA. Lì c'è stato un artista che deve lavorare, vuol dire dare tutto. Lì c'è stato un errore, non è la partita IVA pignorata, vorrei fare una... Sì. Allora, è che quando uno... con la partita IVA ha un pignoramento, non è come uno stipendiato. A uno stipendiato tolgono un quinto della busta paga. Il quinto, certo. Alla partita IVA tutto, perché a priori si pensa che lui abbia nascosto qualche tesoretto. Quindi alla partita IVA non viene concesso neanche un minimo per vivere. La signora ha cominciato con i conti correnti, che mi hanno trovato in difficoltà perché c'erano i soldi per l'affitto mio, il mutuo e la nuova famiglia che avevo creato. Marco, ma la signora non ti credeva? Non credeva quando tu dicevi ho delle difficoltà economiche? Lei, secondo me, era un po' nell'immaginario di come mi aveva conosciuto, immagino. Quindi era una situazione stabile che non dovesse cambiare mai, neanche dal punto di vista economico. Purtroppo, esatto, per chi fa questo lavoro non è così. Insomma. Esatto. E di conseguenza, poi, non contenta, mi ha messo in cattiva luce con pignoramenti contro terzi, con la RAI, che dopo non ho più lavorato, e con le agenzie che ci fanno lavorare. Certo, e quindi insomma una sorta di spirale che poi sì, addirittura ha portato appunto a perdere, se non so se tutto, quasi tutto, in una situazione economica. La prima che hai detto. Mi ha molto colpito oggi leggere una frase sul Corriere della Sera, dire: sono 35 anni che faccio ridere la gente, oggi non c'è nessuno invece che mi fa sorridere. Non è un po' un destino, volendo lo chiedo a te Marco, lo posso chiedere anche a Leonardo, no? Non è un po' il destino di voi artisti e voi comici, voi che fate ridere le persone, ma poi ci siete voi come persona quando scendete dal palcoscenico. Ma diciamo che Leonardo, come me, sono dei casi anomali, perché nel nostro campo ci sono due tipi di comici: quelli vivi sul palco e quelli vivi nella vita. Io e Leonardo siamo vivi nella vita, come ci vedi sul palco siamo per strada. E il fatto che io ho fatto quella battuta è perché noi siamo sempre pronti a sorridere o a ridere degli altri, mentre molti colleghi non ci vedono bene con le nostre battute. Noi ci siamo sempre divertiti, forse più fuori dalla scena che in scena. Però diciamo che formalmente, dal punto di vista giuridico, tua moglie era a posto, aveva ragione. Ah, quello sì, anche perché lei ha parenti avvocati e quindi ha avuto accesso a... con più facilità. A proposito di avvocati, adesso ne vogliamo salutare uno. Sì. Volevo chiederti un'altra cosa, Marco. Quanti anni hanno i tuoi figli? Allora, la più grande 16, il mezzano maschio 14 e la più piccola 7. Ma sono due mamme diverse. Ok, e loro che cosa dicono di questa situazione? Perché immagino che un pochino ne saranno al corrente. Un pochino ne ho parlato, con modi pacati. E un qualcosina, insomma... ne stanno sentendo qualcosa, perché hanno visto ormai in modo tangibile come vive di là e come si vive il papà. Allora, stiamo parlando con Marco Della Noce, ricordiamo Una vita tra drive-in, Mai dire gol, Ottavo Nano, poi il grande successo è venuto con Zelig, no? Il meccanico della Ferrari, questo è come dire quello che ha dato la notorietà davvero in tutta Italia. Però vogliamo salutare un'avvocata familiarista, Andrea Catizzone, che è con noi e ci sta ascoltando. Buongiorno avvocato, grazie. Buongiorno perché a voi, buongiorno. Ci deve aiutare anche ad allargare un pochino il discorso, no? Di recente sono nate anche associazioni che tutelano i padri separati. La domanda brutale gliela faccio: esiste ancora quella cultura nei ovviamente soprattutto nei magistrati di tutelare soprattutto la donna, oppure la parità di sessi ora dovrebbe essere arrivata anche in caso di separazione? Purtroppo il caso che voi avete analizzato dimostra che c'è ancora uno sbilanciamento a favore di un mondo femminile, ma è uno sbilanciamento non solo di carattere giuridico, ma anche di carattere culturale. Intanto le donne sono ancora abbastanza fuori in questo momento di crisi dal mondo del lavoro e hanno delle retribuzioni inferiori rispetto a quelle che hanno i mariti normalmente. Quindi il giudice, quando applica la legge non dice che è il marito che deve dare un mantenimento alla moglie, ma parla di coniuge economicamente più debole. Ora, nelle statistiche, in genere, quindi avvocato, varrebbe anche all'inverso? Assolutamente, ci sono dei casi, Barbara D'Urso per esempio, lei che versa la somma al marito, quindi ci sono dei casi in cui sono più rare le situazioni in cui la donna guadagna più dell'uomo, quindi sì. C'è un problema di carattere oggettivo e materiale. Il problema è che forse questo squilibrio di remunerazione negli anni, fortunatamente, e bisogna ancora lavorarci molto, ma sì, fortunatamente si è assottigliato questo squilibrio. Sì, no? È molto assottigliato, infatti in questo assottigliamento si è inserita la famosa sentenza della Corte di Cassazione, che non è una sezione unita, che dice soprattutto relativamente all'assegno divorzile che ormai non deve essere più commisurato al tenore, il famoso tenore di vita che dal 1990 assilla e impoverisce soprattutto i mariti, ma deve essere valutato sulla base di un'autonomia della persona che riceve l'assegno. Sì. Ma questo discorso del tenore di vita riguarda solo la moglie o anche i minori o anche i figli? No, questo riguarda prevalentemente la moglie. I figli in questi casi si applicano altri criteri sull'autosufficienza economica, quindi non basta la maggiore età, ma devono essere economicamente autosufficienti. Il problema è che però mette in luce il caso che avete analizzato voi e molti altri casi simili, perché anche le persone famose poi sono persone in carne e ossa e vivono comunque le storture della giustizia, anche così perché come vivono gli altri. Avvocato, il concetto di tenore di vita è abbastanza fuori dal tempo, perché chiaramente il tenore di vita si modifica, ma la Cassazione l'ha detto, anche in virtù di un principio di autoresponsabilità. Ormai il matrimonio, dice la Cassazione, non deve essere più vissuto come una modalità attraverso la quale proprio sistemarsi, come si diceva una volta, certo. Ma deve essere trovare in risalto non tanto l'aspetto patrimoniale della relazione, ma quello affettivo. Col divorzio vengono a cessare tutti gli effetti del matrimonio e quindi anche questa solidarietà di carattere economico. Allora, volevo dire una cosa. Il caso che avete messo voi in luce mette in evidenza un problema non tanto di concessione normativa, di applicazione della legge che pure c'è, ma sulla durata, sulla lentezza del sistema che non dà delle risposte adeguate. Ma infatti, avvocato, facciamo così perché dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa, ma riprendiamo, cioè, perché a me ha molto colpito tante volte i cambiamenti anche economici, perché è un mondo anche quello degli artisti che cambia e quindi è si lavora meno. Come se non venissero registrati. Esatto, poi oppure vengono registrati con una lentezza della giustizia italiana che non rispecchia poi la drammatica velocità dei cambiamenti economici. Si resta ingabbiato in quello che è appunto il tenore di vita che non corrisponde più alla realtà. La borsa, e poi rientriamo con Marco Della Noce, Leonardo Manera dagli studi di Milano, e continuiamo a affrontare questo tema. 800 24 00 24. I funamboli. Can't get these memories out of my mind. Ha voluto fare lo smarole. Bravissimo. E ha detto: te lo faccio vedere io come fa il succo il mirtillo. Te lo faccio vedere io come funziona la centrifuga. Ha preso giù un mirtillone grosso così. Solo che quando è entrato si è incastrata la tutina nella centrifuga. È partita la centrifuga e ha lasciato la tutina lì dove c'è il portabucce. E dentro c'era un succo di Schmecker grosso così. Nella bottiglietta da tre quarti, che fa schifo solo a vederlo, perché se lo apri dice: ma non potevi bere! È una roba pietosa. Insomma, Marco Della Noce, Schmecker era straordinario. Tra l'altro, Marco è veramente un appassionato di automobili da corsa. Hai fatto anche rally, no? Per tanto tempo. Facevo i rally, qualche gara di kart, ma la cosa più bella è che sono stato accettato dalla Ferrari proprio. E infatti collaboro col Museo di Maranello. Quando le aziende lo prendono come location delle loro convention, è tutto Asian. Asian. chiamano, ti chiamano. Sono l'unico comico che può entrare. Anzi, se posso permettermi di alleggerire un po' la situazione. Voi siete stati a Maranello qualche volta? No? Io no. No, io nemmeno. Allora, se venite a Maranello è una cosa spettacolare, perché appena arrivi c'è il teatro Enzo Ferrari, la farmacia Enzo Ferrari, la scuola Enzo Ferrari, la biblioteca Enzo Ferrari, la discarica è della Mercedes. Mi sembra giusto, ecco. Mi sembra giusto. No, Marco, tra l'altro hai sentito l'avvocato Andrea Catizzone, sì, che racconta, insomma, nel tuo caso, ecco, da parte dei giudici. Non vogliamo, no, non voglio neanche metterti in difficoltà, non vogliamo. No, no, no, no. C'è un riscontro di, voglio dire, di capire la situazione, o c'è una lentezza delle istituzioni, una, allora, lentezza della giustizia? La lentezza si tocca con mano, perché è vero. E il problema del nostro ricorso del mantenimento è che io ho fatto ricorso perché sono adesso con gli avvocati di gratuito patrocinio. Ho depositato a febbraio la domanda e ancora mi chiamano. Quando il giudice decide, lui non è che dice la sentenza parte da quando mi hai chiesto l'emergenza, parte da quando lo decide lui. Sì. Io sto accumulando adesso 1500 euro al mese di debito ancora, che mi verranno sommati alla fine quando il giudice dirà come cambieranno i parametri. Sì, certo, non è retroattiva la sentenza, quindi no, eventualmente non avrà il rimborso. Esatto. Ma il passaggio per arrivare addirittura a dormire in macchina, qual è stato? È stato che io ho avuto, come l'iter di molte famiglie, lo sfratto, che ha due o tre accessi, e poi esiste l'ultimo accesso dove tu devi consegnare le chiavi all'ufficiale giudiziario. Io, nonostante tutto, a settembre ho avuto l'ultimo accesso, anche se la padrona di casa è stata molto comprensiva, perché ha compreso la mia situazione, che si era creata non per miei motivi, però giustamente lei era la proprietaria dell'immobile, è giusto che ne ritorni in possesso. O sono dovuto uscire di casa. E gli assistenti sociali non avevano ancora previsto o predisposto un'eventuale locazione d'emergenza, e lì ci sarebbe da fare una puntata. E di conseguenza mia sorella mi aveva pagato per i primi giorni una stanza in un albergo. Dopodiché non avevo proprio dove andare. Io poi stavo zitto, dicevo a tutti che andava bene. Poi un giorno mi hanno beccato in un parcheggio, era solamente due notti, eh? La seconda notte mi hanno beccato in un parcheggio dei signori, degli amici di Lissone, ed è partita la gara di solidarietà. No, perché io colgo in tutto questo racconto intanto una straordinaria dignità nel raccontare una vicenda. Quando all'inizio hai detto io non conosco il sentimento della rabbia, che forse è quello che porta a vivere la situazione, che è forse più grande di chiunque la possa affrontare, comunque qualcosa che lentamente ti travolge, uno ne rimane vittima. Sì, poi forse lentamente ti corrode anche, perché poi non provando rabbia quello che è successo è che hai finito per deprimerti, no Marco? La depressione è proprio stata la prima, che la poi reazione. Ho fatto fatica a accorgermi, è sempre stata mia sorella che mi ha detto ma vieni, perché lavora all'ospedale di Niguarda mia sorella, sì, e mi ha preso un appuntamento con la responsabile, una psichiatra specializzata sulle depressioni, e sono stato ricoverato al MAC. E il MAC è un ricovero che tu entri la mattina e esci il pomeriggio, sarebbe, sì, un day hospital prolungato fino a che tu non hai finito tutti gli accertamenti. E che cosa ti hanno fatto? Che esami? Scusatemi. E ho fatto tutta una serie di esami, prima siamo partiti perché poi io cominciavo anche a svenire, sono svenuto davanti ai bambini, sono svenuto e mi sono fatto male, ma era tutte conseguenze di uno stress. Emotiva. Esatto, prima abbiamo fatto accertamenti, ma sulla perizia che loro poi scrivono c'è proprio scritto vittima, quindi che sono stato... Quanto ti è stato difficile riuscire a parlare di questa cosa, anche in modo così esteso e mediatico, diciamo? 120. 120. Da 1 a 100. Non è facile parlare. Ma il fatto che però tu lo dica anche perché essendo un volto pubblico, questo potrebbe aiutare altri padri che certo. magari non hanno quella visibilità, quell'accesso ai mezzi di informazione, e d'altronde si fa anche così. Quello è stata la spinta che sì, mi ha... Sì, che può essere anche qualcosa che ti motiva, no? Che invece ti bravissima, dà una voglia di reagire anche per altre persone, perché diventi in qualche modo testimonial di una battaglia più ampia. Sì, esatto. E poi ringrazio voi che state toccando questo tema, perché spesso e volentieri in programmi giornalistici o di TV se ne parla poco, si accenna ma poi subito viene tolta questa cosa. E io vi ringrazio a nome di tutti i papà che state dando uno spazio a questa nostra realtà. I nuovi poveri italiani sono i papà separati. Questa è una verità, e vorrei tornare da Andrea Catizzone, avvocato, a capire, cioè sono proliferate negli anni proprio delle associazioni che tutelano sì. i papà separati. Vuol dire che è davvero una nuova categoria, purtroppo, che fino a qualche anno fa non c'era. Assolutamente, è un problema quando una famiglia si scioglie, c'è un impoverimento della famiglia di fatto, perché mentre prima si cumulavano gli stipendi, adesso certo. non solo si devono dividere gli stipendi, ma si raddoppiano anche le spese. Quindi c'è un impoverimento reale della famiglia rispetto alla gestione ordinaria della famiglia. Però qui c'è anche un'incapacità, mi spiace dirlo, del sistema giudiziario di non dare delle risposte adeguate alle problematiche delle persone che si separano, perché un padre nelle condizioni di non avere più una casa è un padre che non potrà neanche ricevere i figli, perché dove li fa dormire? Quindi si innesta tutto un sistema di svilimento della figura paterna rispetto anche a non solo problemi materiali, quindi dove riceverà questo padre, questi padri, dove riceveranno i loro figli se non hanno più una casa, o ma proprio la figura genitoriale, dormire esatto, e poi anche viene denigrata la figura, certo, totalmente, un padre che non è più in grado di gestire, di anche far fronte alle minime esigenze della famiglia. E poi dico anche qui un po' una critica ai colleghi e alle colleghe avvocati, insomma, in questi casi non bisognerebbe andare giù con l'accetta, cercare anche di capire se il diritto di famiglia è un diritto di mediazione. E non alimentare il conflitto soprattutto. Questo dovrebbe essere la base. Dobbiamo andare un attimo a sentire le informazioni sul traffico e poi l'ultima parte di Funamboli. State con noi tra un minuto. I Funamboli. Tra l'altro vogliamo ricordare che Due di Denari lunedì, Deborah Rosciani e Mauro Meazza parleranno proprio dell'assegno di mantenimento, dell'aspetto bigenitorialità. Quindi sì. Lunedì, tra l'altro, la cosa che mi stupisce sempre è che gli avvocati possono scrivere a volte qualsiasi cosa e poi spetta alle parti smentire, come se a volte ci fosse, lo dico all'avvocato, una specie di inversione dell'onere della prova, no? Cioè si può scrivere qualsiasi cosa, poi sta alla controparte smentire, sbaglio? Avvocato. Sì, no, dico, purtroppo è lì sta l'onestà dell'avvocato. È chiaro che l'avvocato che deve riportare i fatti come sono, pur nella difesa del proprio assistito, è chiaro, il compito principale è quello di difendere al meglio il proprio assistito, però certamente il diritto di famiglia è talmente peculiare, interessa così tanto la vita della gente, la vita delle persone, che intanto secondo me servirebbe una specializzazione, perché non che tutti gli avvocati possono occuparsi del diritto di famiglia, perché non si può passare dai contratti alla famiglia con la stessa attitudine rispetto alle problematiche. E poi anche lì avere un'onestà, come si dice, intellettuale rispetto anche professionale. Vabbè, questo dovrebbe essere la deontologia base. La deontologia ce lo impone. Però è chiaro, io insomma non mi trattengo, perché noi qua abbiamo due artisti in diretta, Leonardo Manera e Marco Della Noce. La cui forza è anche quella di riuscire sempre a far ridere e a ritrovare questa forza qui. E allora tocca a voi, Tocca a noi. Caro Marco Della Noce, non so se tu hai ancora qualche cosa, perché poi la Ferrari è cambiata, c'è Marchionne da qualche anno. C'era Marchionne che, ragazzi, ci ha lasciato veramente un po' ai limiti, nel senso, che i piloti ci sono, la macchina c'è, il direttore sportivo si chiama Arriva Bene, è l'unico Arriva Bene che c'ha il nome, basta, perché la macchina non sta più arrivando. Però le differenze non sono più quelle di prima, perché adesso ha messo tutto in riga. Per esempio Vettel, per entrare nei box c'è il telecomando, Raikkonen deve scendere e citofonare. Questa è una delle problematiche in Ferrari adesso. Marco, tu hai iniziato col drive-in tanti anni fa, cosa ti ricordi di quegli anni del drive-in? Perché ero giovane. In mezzo a tante belle giovani. Quello te lo ricordi, quello me lo ricordo. Mi ricordo che erano gli anni del demenziale, io facevo un personaggio che parlava così, diceva: salve, sono Giuengiui e le sue Giuengiuime. Solo che le battute erano terribili, dicevo: sai perché il panettone è abbronzato? Perché fai raggi uvetta. Non è vera, non è vera. A livello delle mie. A livello di quella di Manera di adesso, praticamente. Sì, cioè, no. E poi, vabbè, poi gli anni di Zelig. Io ho iniziato nel 2000. Zelig, tu. Noi abbiamo iniziato anche in terza serata. Sì, ti ricordo, sì. Facevo Larsen, il fonico di palco, con una buona scena. Quello che mentre camminava per strada davanti a una libreria ha visto un libro con scritto "Vincere la droga" e ha detto: che occasione. Quante ne avrete combinate voi due? Non voglio neanche immaginare. Guarda. Io invece ho iniziato, leggevo le battute sulle cartoline, così dicevo: se non piace la battuta, piace la cartolina. E le spiegavo, per esempio, dicevo: tutto è relativo, per due denti, cosa vuole che siano? Disse il dentista. Tutto per me, rispose il tricheco. E poi la spiegavo, dicevo: qui la comicità sta nel fatto che il tricheco di solito non va dal dentista. Ma perché? Questa è comicità for dummies, sì, spiegata e negata. È come spiegare le barzellette. Poi a Zelig ho fatto l'ipnosi, fingevo di essere ipnotizzato con Claudio Biso, che mi faceva da terapista. Per esempio dicevo, le chiamo Leonardo Antinio, perché quando nacqui l'impiegato dell'ufficio anagrafe non capii bene, invece di Antonio scrisse Antinio, che poi mi restò per sempre. Abitavo con mio padre Lucino, in realtà Luciano, con mia sorella Federacca. Al piano di sotto abitava la famiglia Guasto. Nessuno suonava mai al loro campanello. La famiglia Guasto. Sì, e poi è bello che le spiega anche. Lo ribadisce. La sfiducia, enorme sfiducia in chi lo ascolta. Non si limita. Poi ho fatto il cinema. No, poi ho fatto Peter da Brescia, che purtroppo, in effetti. Ma Alessandro Milan mi sta facendo il segno da Roma che la trasmissione è quasi Peter finita. Da Brescia lo conosciamo. Però, sì, noi vogliamo ringraziare tantissimo l'avvocato Andrea Catizzone, ma ringraziamo tantissimo il grande in bocca al lupo a Marco Della Noce. Grazie. So che c'è grande solidarietà umana, vero, sì. E anche da parte degli amici di Zelig. Che Marco, io ti voglio dire una cosa: sei stato molto coraggioso, perché riuscire a raccontare, soprattutto quando si è noti, quando si viene visti come dei personaggi vincenti, tirare fuori la propria parte fragile, quella che è la cosa più difficile che si possa fare. Ci vuole gran coraggio. Ti ringrazio per queste parole, grazie. Grande, grande in bocca al lupo. I Funamboli tornano lunedì. State con Radio 24. Che poteri magici ci avrai?